Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera. Buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di chi è con me ogni martedì sera, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa sera è il 14 febbraio del 2012, inutile ricordare qual è il santo festeggiato per tutto il giorno, fiori a destra, fiori a sinistra, parole d'amore, quelle che si potrebbero dire tutto l'anno, in realtà vengono utilizzate molto spesso anche in forma così un po' superficiale per fare i complimenti al proprio partner, alla propria partner. E insomma, fiori a gogo. E in questa serata, visto che di fiori ne parlano in abbondanza a Sanremo, noi abbiamo deciso di fare una serata davvero alternativa, perché abbiamo il nostro consueto ospite, un ospite che noi proponiamo in versione live, e quindi diamo il benvenuto a lei, a Ila, che ci è venuta a trovare direttamente da Bergamo. Buonasera Ila. Buonasera. E salutiamo anche i Happy Trees, perlomeno si fanno chiamare così, o li hai chiamati così Ila? Ci siamo chiamati così, non mi ricordo neanche più bene come, però. Comunque, The Happy Trees, vogliamo sapere, anzi, conoscere innanzitutto la voce dei protagonisti. Eccoci. Ecco qua. Lorenzo, sono il chitarrista e sì? Il regista della band. Bene, e poi c'è... Buonasera a tutti, io sono Teo, il batterista e percussionista. Perfetto, bene, allora bene. Abbiamo conosciuto anche le altre voci, il viaggio fatto bene in questo tragitto tra Bergamo e Padova? Sì, sì, sì. Perfetto. A parte un piccolo incidente che abbiamo trovato in strada, ma, beh, vabbè, siamo ma quello arrivati in tempo. Fa parte della 4, diciamo, esatto. Trovare gli incidenti. Esatto. Ecco, e invece i rami, il tronco, tutto bene. Sì, no? gli alberi felici stanno sempre aperti. Benissimo, sempre allora hai appena detto che non ti ricordi neanche in quale frangente sia nato il nome. Ma, sì, ma perché è nato proprio questo nome, Ila? È quello che non ci ricordiamo. Se si può dire. Sicuramente c'entra il fatto che noi dal vivo portiamo un live con fiori finti, cose inerenti comunque agli alberi, alla natura, eccetera. Mm. E un po' anche perché rappresenta fondamentalmente lo spirito con il quale noi affrontiamo la musica e il modo di, insomma, di arrangiare i pezzi, eccetera. Non che gli alberi arrangino le canzoni. No, assolutamente. No. Almeno qua non mi sembra, no. Però diciamo che è lo spirito un po' bucolico. In effetti il nome della band è nata dopo la registrazione del disco, perché io sono sempre uscita con gli altri dischi sempre con il nome di Ila e basta. E basta. Mm. E questa volta invece la band ha avuto un'importanza predominante su quello che è proprio il sound che è venuto fuori, e siccome appunto grazie all'utilizzo del banjo, dell'ukulele, insomma di percussione eccetera, il suono che viene fuori è un po' agricolo, come piace a noi definirlo, il nome doveva essere un po', insomma, inerente a questo, quindi... Mi piace il termine agricolo relativo alla musica. Perché non è country, perché non facciamo country, però è agricolo. Perché il country non comprende ortaggi, frutta e verdura, diciamo, o comprende solamente l'erba e vaste praterie. In questo caso, comprendendo anche il frutto del lavoro del contadino. Esatto. Vabbè. Allora, hai parlato di bucolico, poi è una cosa giusta secondo me. Sì, bucolico anche. Sì. Anche bucolico si può collegare, Flavio, al discorso West Coast. Quindi assolutamente Happy sì. Trees, quindi già qualcosa ricorda West Coast californiana, sì, non, sì. Però qualcosa c'è, non prettamente la vostra musica, però qualche addentellato Ila. Sì, esatto. Stiamo parlando anche, in particolare l'abbiamo già inserito, non abbiamo ancora detto il titolo dell'album di cui ascolteremo alcune tracce in questa sera, sia in versione da disco sia in versione live, perché siete arrivati muniti di strumenti, sì, quindi esatto. Ti ho visto con la chitarra, poi c'è un bellissimo banjo che sentiremo suonare più tardi, esatto. Poi ancora un cajon e poi un tamburo da un nome davvero particolare. che... In effetti non lo nego. Sì, noi nominiamo tutti gli strumenti che non sono ovvi, nel senso di solito solo le percussioni sostanzialmente, sì. Con degli altri nomi. Nel caso specifico lui ha un tamburo, spiegalo tu. Allora, per farla breve, è un tamburo sciamanico. Sì. E siccome però a noi mancava un po' come dire, il pathos legato alle sensazioni che ci dà, abbiamo deciso di chiamarlo il tamburo della morte. Sì, così, tanto per renderlo allegro, diciamo. No, perché siccome noi siamo gli happy trees e noi siamo per il bene, allora picchiando il tamburo della morte ha un senso catartico. Giusto. Di vincere le forze del male e portare la luce. Giusto. Certo, quindi chiamato così per infondere del bene. Esattamente. Durante questi tocchi profondi, ma... Bravo. Ecco, bene. Poi abbiamo anche altri strumenti, ma non qua, appunto, certo. Tipo Pinocchio, per esempio, che è un'altra percussione che in quanto pezzo di legno mi sembrava giusto chiamarlo Pinocchio, e si rimane sempre nella famiglia degli alberi alla fine. Bene, assolutamente sì. Allora, Hila and the Happy Trees a Blu Radio Veneto per la presentazione di questo Little World, si chiama così, questo piccolo mondo, che vediamo di affrontare subito presentando la prima canzone, per poi commentarla insieme per far conoscere quella che è la musicalità delle canzoni di Hila and the Happy Trees. Quindi ci avviciniamo al nostro lettore CD e schiacciamo il tasto play e ci ascoltiamo. Naturalmente bisogna fare così, sì. Ecco, e quindi ci ascoltiamo il pezzo che si intitola Tomorrow. Blu Radio Sera. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il primo pezzo di Hila and the Happy Trees dall'album Little World, con la canzone che si intitola Tomorrow e con una frase che dice tra tutte: ti auguro un giorno perfetto. È una canzone assolutamente inglese, ma con un titolo comprensibile, visto anche un'ottima pronuncia in inglese. Grazie. Un pezzo che però guarda verso l'America in questo caso. Sì, come stavo dicendo fuori onda, puntualizziamo, sennò. Sì, perché non ricordiamo è voluto, gli ascoltatori però. Che mentre si ascoltano le canzoni, loro ascoltano le canzoni e noi si paciola, esatto. si dialoga. Esatto. Così, sì. Esattamente. No, sì, non è stata una cosa voluta, niente in questo disco è stato voluto, nel senso che io i pezzi li ho scritti negli anni precedenti alla registrazione, nell'anno precedente alla registrazione, e poi gli arrangiamenti sono nati spontanei quando registravamo. Poi peraltro questo pezzo in particolare è molto breve, molto semplice, ma è volutamente semplice. Anche il testo stesso vuole essere un messaggio appunto che sia comprensibile anche fondamentalmente da chi conosce poco l'inglese, perché Tomorrow is another day non è proprio una frase così complicata, insomma, da far arrivare. Anche musicalmente è un pezzo che cattura immediatamente, molto accattivante, orecchiabile. C'è una bella descrizione, un bel vantaggio per la gente che ascolta, immediatamente entra in circolo. Insomma. Allora, a proposito di Tomorrow, c'è da ricordare che c'è appunto la voce di Ila, c'è Teo Marchese al cajon, al basso Paolo Legramanti. Sì, è il quarto Albero Felice. Albero Felice, poi ancora ci sono le voci del coro a cura di Nima. Esatto. E poi c'è una presenza di una chitarra acustica importante. Adesso a te stavo fuggendo il nome. Sì, ma non il nome, mi ero completamente ti eri completamente dimenticata di lui. No, povero Jesse. Poverino. No, Jesse Harris, che anzi, insomma, è stata un'esperienza particolare, perché io ho ascoltato una sua canzone per la prima volta. Anzi, ve la racconto tutta. Teo, qui presente, mi aveva comprato da iTunes il disco e poi me l'aveva messo su disco, su CD. E io sono partita per un viaggio, ho messo in macchina il disco, solo che si è rotto praticamente al primo pezzo, che era Phil, che era il singolo di questo disco di Jesse Harris. E io la prima, la seconda, la terza, il terzo ascolto, proprio ho iniziato a piangere di emozioni, di gioia fondamentalmente, no? E lì mi sono resa conto che la direzione che volevo prendere, che avevo già iniziato a prendere ma non mi ero neanche resa conto fondamentalmente, fosse vicina a questo al mood che avevo in questo disco. Difatti la sera stessa sono tornata poi a casa, ho cercato su internet chi fosse questo Jesse Harris, perché sinceramente non lo conoscevo. Certo. E quella sera, dopo due ore dal mio rientro a casa, suonava a Milano alla Salumeria della Musica. Ecco, vedi. Quindi noi siamo partiti di corsa, catapultati. Esatto. Ricordiamo i nostri ascoltatori che Jesse Harris è un cantante statunitense, anche un ottimo chitarrista, produttore appunto di Norah Jones, e ha suonato anche assieme a Anni di Franco. Esattamente. Un po' di tempo fa compariva nel palco assieme a lei, non per l'ultimo album, no? Non per l'ultimo. Adesso non ricordo qual era il lavoro precedente. Ne ha fatti tantissimi Anni di Franco, ecco, però ovviamente Non nell'ultimo album, non c'è. In ogni caso stava già suonando con noi all'epoca. Ecco, perfetto. Benissimo. Esatto, esattamente. Perfetto. Allora, Maurizio. Sì, già Tomorrow è un pezzo, come abbiamo detto, godibilissimo, acustico, ma un acustico non però così lasciato a perdere, un acustico di un certo livello, ben fatto, ben costruito, perché all'inizio bisogna qualche minuto, pochi minuti, per vedere subito com'è il discorso, per sentire subito com'è il discorso. L'idea di Tomorrow, tu hai giustamente detto, Ila, è nata così praticamente. Sì, io, vabbè, tutto comincia chiaramente quando io compongo, e quando compongo non ho un obiettivo, nel senso, sì, ho l'obiettivo più generico di far star bene le persone. Certo. E questo è, la base, prioritario, diciamo, esatto. Però non scrivo mai perché devo scrivere una canzone. Anzi, da quando mi sono messa a scrivere in questo nuovo mood, questo, diciamo, progetto nuovo, mi escono le canzoni ogni volta che prendo la chitarra in mano, per cui è proprio succede, diciamo, accade, e io lascio A proposito, tu hai detto adesso prendo la chitarra in mano e succede qualcosa. Sì. Cosa succede adesso se ti dico prendi la chitarra in mano? Ad esempio. Devo fare adesso. Sì, no, sì. Beh, per scrivere un pezzo ci vuole un po' più di concentrazione. No, certo, però per suonarci la... Spaccato tutto. No. Tutto integro ancora. È stato il microfono che un attimo ho visto le stelle, però. Bene, vabbè, grazie al manico della chitarra. No, volevamo sentire quella bella canzone della La vigilia di Natale. Ok. Cosa dici? Sì, sì, assolutamente. Si può fare? Sì, va bene. Aspetta, poi che mi tolgo le cuffie. Certo. Allora, agli amici ascoltatori, ricordiamo che siamo all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, chiamata Blu Radio Sera. Sono Flavio Bilato, accanto a me Maurizio Calzavara. Siamo assieme a Ila and the Happy Trees per farci ascoltare dei pezzi sia da disco sia live del loro ultimo lavoro, si intitola Little World, e proprio adesso ci ascolteremo in versione live la vigilia di Natale. A voi. Però qui c'è scarsità di osservazione. Neve come fosse la vigilia di Natale, sole come quando ci perdiamo in alto mare, pioggia quando arriva a rinfrescare finalmente, vento che scompiglia tutto frettolosamente. Neve come fosse la vigilia di Natale, sole come quando ci perdiamo in alto mare, pioggia quando arriva a rinfrescare finalmente, vento che scompiglia tutto frettolosamente. Scapperò su di un manico di scopa e mangerò quello che la gente sputa e non c'è più attenzione al sentimento, e perciò camminerò a passo lento, girerò ogni nuovo rubinetto e salirò al tramonto sopra il tetto, e vorrei che non si perdesse il sarcasmo e che tu recuperassi l'entusiasmo. Neve come fosse la vigilia di Natale, sole come quando ci perdiamo in alto mare, pioggia quando arriva a rinfrescare finalmente, vento che scompiglia tutto frettolosamente. Neve come fosse la vigilia di Natale, sole come quando ci perdiamo in alto mare, pioggia quando arriva a rinfrescare finalmente, tutto frettolosamente. E anche se alla gente non importerà più niente, cercherò la verità costantemente. Neve come fosse la vigilia di Natale, sole come quando ci perdiamo in alto mare, pioggia quando arriva a rinfrescare finalmente, vento che scompiglia tutto frettolosamente. Dirà, dirà, dirà, dirà, dirà, dirà. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre dalle frequenze di Blu Radio Veneto siamo noi, quelli del martedì sera. Assieme a noi c'è Ila and the Happy Trees. Stiamo ascoltando alcuni pezzi del nuovo lavoro Little World, ricordiamo, e abbiamo ascoltato in versione acustica con chitarre e con cajon in questo caso, e la vigilia di Natale. Innanzitutto, Ila, complimenti per il pezzo, che veramente ha una bella costruzione e piacevole da ascoltare. Mi ripeti l'inizio? E testualmente, sì, intendi? Sì. Amemi è un errore colossale. Ecco, e quindi è proprio un errore colossale. Amemi. Amemi, sì. È. Esatto. E quindi... E poi, ma però, non si può dire ma mi piace. Hai capito, benissimo. Sì. Allora, poi una seconda cosa. La vigilia di Natale, si sa, viene sempre descritta con le luci, con le stelle, con tutto quello, tutte le lucernarie che ci sono per strada, e poi ancora con la neve, con qualcuno vestito da Babbo a Natale. Ecco, io ho visto il vostro video. Ecco. Sì. per dire che assolutamente Natale, niente. La vigilia nemmeno Santo Stefano c'entrano molto. Guarda, cioè, devo fare una premessa. Sì. Allora, appunto, prima dicevo che di solito prendo la chitarra e scrivo i pezzi. A volte sì. succede invece quello che è successo con la vigilia di Natale, ossia che mi sono svegliata, cioè sono stata svegliata dalla melodia della canzone una domenica mattina prestissimo, che, e non riuscivo a riaddormentarmi, cioè c'era questa melodia che mi proprio era in testa praticamente. Allora mi sono dovuta alzare, mettermi lì a registrare la melodia, perché ho detto vabbè, se no andiamo avanti fino a domani. E dopodiché sono tornata a dormire, però è partito il testo. Quindi tu sei svegliato un'altra volta? Come se mi stavo addormentando. È partita questa cosa del ritornello, questa cosa qua del ritornello, ma proprio, cioè, senza senso. Infatti ho detto ma basta, voglio dormire. Della serie, questi vicini proprio... di mente esatto. Non stanno mai zitti. Io li chiamo quelli del piano di sopra. Ecco, perché... Quindi niente, mi sono dovuta metterli a scrivere il testo e poi mi sono potuta riaddormentare. Cioè il pomeriggio, insomma, sì. quando poi mi sono risvegliata, al pomeriggio ho messo insieme le due cose ed è nata la canzone. Ho aggiunto le strofe, perché in questo caso era solo il ritornello, ed è nata la canzone. Però non c'era un ragionamento. E dei i ragazzi poi cosa hanno detto? Poi gliel'ho fatta sentire. Io ho espresso la mia perplessità. Ah, in che senso? Nel senso che non vale che lei si sveglia la notte e qualcuno le ha già detto il testo. Ho capito. È troppo facile. No, ma scusa, esatto. Prima mi sono fatta la mia gavetta. Cioè, a un certo punto come mi concetto una è magico, certo, però certo. Tecnicamente non l'ha scritta la tecnica. Metà e metà, diciamo, che se devo dare i punti si hai a quelli del piano di sopra. 50 e 50, 12 Benissimo. 24esimi a testa, ecco, insomma. Quindi. E quindi poi per finire il discorso, in realtà si intitola La vigilia di Natale, ma appunto parla poi di tante altre cose. Cose, anche della barca nel mare, sole, eccetera, degli eventi atmosferici in sostanza. E, però mi piaceva questa idea di mettere un bambino e un anziano insieme a trasmettere quello che appunto si capisce poi dal video, a portare la felicità alle altre persone. Infatti nel video si vede appunto che fermano gente per strada, la fanno ballare, sì, c'è questo balla. Passaggio di questo fiore molto primaverile anche. Esatto, sì. E poi tra le altre cose c'è anche c'è un bellissimo dalmata anche, che sì, fa parte sì, del gruppo enorme. No, è un dalmata, è uno di quelli che va ad impossessarsi, a rendersi proprietario degli alberi, di quelli che quando alza la campagna. No. Sì. Il nostro caro amico Amos, che è un cane, è un dalmata fuori forma, diciamo, perché è proprio, non si capisce tantissimo dal video, ma è gigante proprio, sì. È come Pongo di Peggy e Pongo, ecco, della carica dei 101. Esattamente, sì. Esatto. Prima di questo disco, Ila, è stato inciso solo in digitale un EP acustico. Ha qualche influenza su questo disco poi? Ma dunque, in realtà c'è da dire una cosa. Dimmi. Siamo qua a posto. Allora, la storia è che prima ho registrato anni fa Mal di testa, sì, che era esatto, il primo disco. Tuo primo disco. Poi c'è stato un EP che si intitolava Tutto bene, che in realtà era un disco di 12 pezzi. Avrebbe dovuto essere usiamo i lo dico i tempi da produttore. L'avevi prodotto te. Esatto, avrebbe dovuto essere un disco. Sì, solo che nel frattempo c'è stato questo mio cambiamento di direzione e questa cosa di Jesse Harris che raccontavo prima, cioè io quindi poi la mattina noi eravamo in studio a registrare quando è successa questa cosa di Jesse Harris, stavano registrando Va tutto bene. Il giorno dopo sono andata in studio, dopo una nottata sveglia a ragionare su questa cosa, ho detto ragazzi è stato bello, però cambiamo tutto, facciamo un EP. Cioè il disco finisce qua perché non ha senso, perché io sento fortemente questo cambiamento, anche soprattutto sulla questione della lingua, che appunto sono passata all'inglese. Certo. E quindi abbiamo finito quello. Quindi poi, hai dimezzato praticamente. Sì, perché avevamo già registrato quei pezzi lì, ne avevamo registrato forse 7, ne abbiamo tenuti 6, una cosa non mi ricordo. E niente, abbiamo fatto comunque uscire l'EP, perché comunque si sentiva un passaggio tra Mal di testa e quello che sarebbe stato. Nel frattempo poi abbiamo messo sugli EP Trees, abbiamo registrato Little World, però siccome i tempi discografici sono sempre un po' dilatati, sì. Nel frattempo abbiamo deciso di registrare questo EP acustico che c'è solo in digitale, e abbiamo praticamente registrato io e Lorenzo, e poi c'è qualcosa di percussioni e anche di elettronica che ha messo Teo, e abbiamo avuto uno special guest che è Roby Zonka, che col quale abbiamo fatto questa versione di oddio, non mi manca il titolo. Grazie Lorenzo, vedi, non parla poco, ma quando parla ecco. Quando parla dice solo The Very Todo View. Sì, esatto, The Very Todo View. Appunto uno standard. Sì. e dove abbiamo appunto cantato metà canzone per uno e ci siamo divertiti molto. Infatti dal vivo ogni tanto quando si riesce la facciamo insieme perché è molto divertente. E poi ci sono un paio di canzoni inedite che però in realtà erano del tuo precedente vecchi, progetto, sì, e un altro pezzo del primo disco rifatto, che è Libera, rifatto in versione tango, in acustico, insomma diverso completamente, che è servito un po' da prepista, sì, perché comunque si stava passando una cosa più tranquilla, non più il rock del primo disco, che non c'entra proprio più nulla da nessun punto e si è allontanato da te il rock del primo disco, sì, assolutamente l'oscurità del primo disco. Bene, fermi tutti perché adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. Allora, un pezzo, ognuno vorrebbe averlo, non sappiamo bene se il pezzo o la cosa che rappresenta il pezzo. L'orologio d'oro. Sì. Si intitola L'orologio d'oro, sì. Poi scopriremo dopo, perché, okay. Intanto ce lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ila and the Happy Trees sono venuti a trovarci direttamente da Bergamo e stiamo scoprendo con loro quelle che sono le sonorità di Little World, si intitola così il loro ultimo lavoro, un album che si apre con una copertina con una bambina che tiene il mondo con sopra una casetta, e poi stile neonato c'è l'avambraccio che contiene anche la targhetta con scritto Ila tanto per non perdersi, sì, no? Esatto. Perché magari se non sai pronunciare il tuo nome c'è qualcuno che legge la targhetta, esatto, e ti riporta il padrone. Benissimo, allora Ila, l'orologio d'oro, sì, è il titolo di questa canzone. Come mai tra i mille oggetti disponibili ti è venuto in mente proprio quello che ti eri dimenticato nell'ultimo cassetto? No, allora dunque non mi sono inventata praticamente niente salvo il finale, nel senso che stavo leggendo in quel periodo un libro che si intitola Songwriters on Songwriting, giusto? Ecco, perché ho una memoria terribile, e quindi in pratica è una raccolta di interviste fatte a diversi cantautori in anni diversi, dal 70 al 2000 praticamente, e dove loro spiegano in che modo si approcciano alla composizione, eccetera. Poi chiaramente all'interno delle interviste poi il giornalista chiedeva anche delle cose legate un po' alla loro vita, eccetera. E leggendo questa intervista fatta a Graham Nash, mi aveva colpito la sua storia, perché la condividevo idealmente, nel senso che lui raccontava appunto di essere nato a Manchester, di essere cresciuto a Manchester, dove all'epoca si pensava fondamentalmente a lavorare, ma inteso come o andare in fabbrica, aggiustare motori, oppure zappare la terra sostanzialmente, e in questo clima gelido appunto e grigio, il riassunto era appunto andare a lavorare per aspettare di andare in pensione, ricevere l'orologio d'oro e poi morire, perché alla fine il succo era quello lì. E appunto poi lui raccontava di come se ne fosse andato, perché non riusciva a fare quel tipo di vita, di pensare di poter fare quel tipo di vita lì. E sono rimasta colpita perché è la stessa cosa che ho sempre pensato anch'io da quando avevo 15 anni, nel senso, non chiaramente per l'orologio d'oro, certo, che peraltro anche qua quando uno va in pensione nelle, sì, società di solito gli amici o quello che, sì, regalano, certo, l'orologio d'oro, lo regalavano una volta adesso, esatto, mi ricordo società... mio nonno qualcosa del genere. Società adesso non ho più, no, soldi, ma adesso non ci adesso sono più le società, pensione, così, esatto, risparmiano sugli orologi. È vero, è per quello, perché non c'è più il soldo per l'orologio, esatto, d'oro, si va in pensione a 66. Ecco, esatto, esatto. No, praticamente io mi ricordo sempre come se fosse ieri, quando a 15 anni anche non suonavo ancora, ho iniziato l'anno dopo, che mi sono posta questa domanda, no? Ma io adesso devo andare a scuola per aspettare le vacanze, ma vado a scuola per poi trovarmi un lavoro, lavorare, sposarmi, fare dei figli e morire. E a me sta cosa non mi piaceva. Torna a bomba il tamburo della morte. Dai, no? Vai di tamburo della morte. Vai. Fammelo un sentire. Un attimo che eseguo. Sì, sì. Esatto. Ecco qua. Esatto. Sembra quasi vicino alla campana. Insomma, sì. E quindi appunto difatti poi le scelte che ho fatto nella vita sono state esattamente in stile Nash, nel, certo, senso, sì, che, sì, poi ho preso, io sono di Genova, me ne sono andata da Genova per seguire la musica, insomma, quindi quando qualche anno fa ho letto questa intervista mi ha colpito, solo che siccome io sono per il lieto fine, ho voluto nella canzone fare sì che lui tornasse in patria, okay, okay, e quindi infatti tornasse a Manchester, sì, esatto, diciamo che alla fine nella vecchiaia guardando appunto la televisione c'era l'Inghilterra e lui dicesse vabbè dai torno indietro e scrive una canzone, vabbè, tutto un po' più poetico. Beh, potassi che torni in Inghilterra spesso e volentieri. Mi hanno detto che ha sentito un pezzo di una cantautrice italiana che l'ha ispirato a svernare. Ma potresti scrivere, potresti mandare il pezzo a Graham Nash, non sarebbe, sarebbe, sì, un'idea. Lui è arrivato con gli Hollies, ha fatto grande successo, poi è sbarcato in America, non si sa mai da parte tua. Basta, c'è l'indirizzo. Magari poi adesso col mondo di internet è, esatto, aperto tutto, l'indirizzo viene fuori prima o poi. Oppure potrei provare. Secondo me basta scrivere anche a Graham Nash. Sì, secondo me. Caso Graham Nash America, sì, USA. Arriva. Magari un postino impregnato di musica country, sì, lo beh, farà. Tra l'altro, visto, non vorrei sbagliarmi, ma è lui quello della storia che il figlio era musicista e poi si sono messi a suonare insieme. Il progetto CPR, che adesso ho un attimo. No, quello è David Crosby, forse. È Crosby, niente. Quello è David Crosby. Attenzione a parlare con Maurizio. No, no, beh, no, meglio, perché sennò dicevo una stupidaggine. No, no, con David Crosby si è suonato insieme il figlio. Sì, sì, che però appunto il figlio che lui non sapeva di avere. Sì, esattamente, l'ha scoperto dopo. Che i discorsi di Graham Nash sarebbero molto lunghi, non possiamo raccontare. Ah, ma era il figlio di Nash, quindi. No, no, era il figlio di David Crosby. Anche se Graham... Abbiamo lo scoop. Anche se David Crosby è il figlio di Graham Nash. In ogni caso, anche se Graham Nash ha molti figli, no, no, no, molti figli. Musicalmente ha avuto molte conoscenze anche nella West Coast, sì, sì, in primis Joni Mitchell, quindi tanto per citare. Voglio fare un che appello... non è la mamma del figlio di Greg. Assolutamente voglio fare... no. Voglio fare un appello a qualche operatore all'anagrafe per fare una verifica su quanto ho detto. Perché non mi credi? Stai attento che allora, suona il tamburo della morte. Come avrete capito, carissimi ascoltatori, siamo con Ila e The Happy Trees a testimoniare anche che la formula happy c'è tutta in questa serata. Siamo cretini, sì. Ecco qua. No, assolutamente. Solo che dire cretin tree non era abbastanza discografico. No, non si trovava il tronchetto della felicità tradotto in inglese, in altra forma. E allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo sia in versione radio, quindi nella classica FM, ma siamo presenti anche in internet, all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, prendendo la pagina dedicata a Ila and the Happy Trees, potrete ascoltare la diretta audio. Poi ricordiamo agli ascoltatori che è anche presente la nostra pagina su Facebook, Blu Radio Veneto Rock Wave, questo è il nome. Potete anche intervenire con qualche commento della serata e qualche saluto ai nostri ospiti. E ricordiamo che poi questa trasmissione è registrata, per cui più avanti sarà anche inserito il podcast, se qualcuno ancora curioso può naturalmente agire su internet e ascoltarsi ancora il pezzo di questa intervista. E naturalmente ci saranno anche le foto della serata che vengono scattate dal collega Maurizio. Allora, direi, se avete ancora voglia di suonare dal vivo, immagino, ciao. Assolutamente, no, così era una forma come un'altra per dire mi piace molto quel pezzo che si intitola I Can Feel It. Ce lo fate dal vivo? Ma guarda, già che ci siamo. Dai, noi non avremmo tanta voglia di no, la verità. No, è vero, però adesso magari se vi levo la base in sottofondo, magari vi arriva anche l'ispirazione per suonare e cantare questa I Can Feel It. Quindi spazio a Ila and Happy Trees. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I Can Feel It, questo è il titolo della canzone proposta da Hila and the Happy Trees. Gli Hila and the Happy Trees sono Hila, la voce e la chitarra, poi c'è ancora Lorenzo Fugazza. Yes. Complimenti per il cognome, ci ricorda molto un qualcosa da mangiare. Visto che io sono genovese, l'ho scelto solo per quello. Ah, per quello. In realtà lui non è tanto bravo. In però prima era un chitarrista molto più bravo, ma non aveva attinenza con la mia provenienza. Poi c'è ancora Teo Marchese alle percussioni e salutiamo a distanza Paolo Legramandi, che è un altro chitarrista della bassista della band. Il nostro bravo bassista. Tu Flavio non hai visto con quale destrezza Hila si è levata gli occhiali, ha messi là e non si è mossa di un momento, tutto perfetto mentre suonavamo. Beh, sì. Perfetto, non ha perso niente, assolutamente niente. Sì, sono l'abitudine, diciamo, un artista a 360 gradi. Esattamente, in caso, esattamente. Tutto tondo, equilibrista. Poi c'è una bella cosa che ha scritto, sì, un giornalista su questo pezzo molto bello che Flavio ha scelto, un pezzo molto pop secondo me. Mm-hmm. Ha scritto: questo è un singolo che Natalie Imbruglia insegue da molto tempo. Peccato che lei non lo sa. È un bel complimento. Allora, per prima te devo scrivere Graham Nash, poi sì, Natalie Imbruglia ti ascolta. Saresti decisamente ok anche per quello. No, sarebbe fantastico scrivere a Natalie Imbruglia dicendole: ho trovato il pezzo che hai perso. Mi hanno detto. L'ho trovato nella sala arrivi dell'aeroporto. Esatto. Tra l'altro questo è il primo che ho scritto di questa nuova esperienza. Che è appunto di scrivere in inglese, di insomma questo nuovo mood più allegro, più rilassato, eccetera. Basta. Quindi, quindi ci sono due maniere di esprimersi per te: l'italiano e l'inglese. Sì, e poi il modo, nel senso, appunto, arrivando poi da quello che era un rock all'italiana, più o meno, un rock pop. Mm-hmm. Sarà anche che comunque, voglio dire, nella vita si cambia, si fa un percorso, e quel tipo di rabbia che avevo prima, quando magari abbiamo fatto il primo disco, non c'è più, anzi gli obiettivi con la musica sono cambiati, appunto, perché l'idea di far star bene la gente è molto presente, mentre prima scrivevo, non so come dire, perché magari ero arrabbiata per qualcosa, le classiche cose post-adolescenziali, diciamo. E quindi sì, però sì, continuo a scrivere sia in italiano che in inglese, perché non ad esempio c'era un giornalista, giusto, che citavi una delle recensioni, che diceva appunto che dovrei capire se fare, se cantare solo in italiano o solo in inglese. Esatto. Io non riesco proprio a vedere il problema, nel senso che è un modo di esprimersi, cioè come decidere di usare una chitarra piuttosto acustica piuttosto che elettrica, nel senso è un modo di esprimersi, tanto che adesso sto anche scrivendo in genovese. Ah. ma perché conosco questo e basta. Se sapessi scrivere in portoghese, scriverei in portoghese. Se sapessi scrivere in un'altra lingua, la userei, perché è un modo per esprimersi. In senese, ad esempio? In senese, sì, appunto. Sì, adesso sì. Non c'è in questo disco, in quello nuovo sì. Nel prossimo ci sono due pezzi, uno che in realtà è uscito già su una compilation che si chiama Anatomia Femminile, è un libro compilation, libro di Michele Monina, compilation di 23 artiste, 23 cantautrici tutte donne, tra le quali Andrea Mirò, tanto per citarne una. Sì. E dove praticamente questo scrittore Michele Monina ci ha chiesto di scrivere ognuna una canzone su una parte del corpo femminile. A me è toccata la lingua, perché dice che sono una buona comunicatrice, in realtà non mi ha mai visto sul palco. Quindi si sgretola questa cosa, e dove appunto per necessità ho scritto un po' in inglese, un po' in italiano e un po' in genovese. Ma è successo anche lì, non decido mai niente in questo senso. Quello è appunto già uscito, si intitola La Lingua, e un altro invece che uscirà nel prossimo disco. È metà in genovese e metà cantato da un altro artista che adesso non si può dire. Ci sarà una prevalenza ancora una volta di strumenti acustici nel nuovo disco, sempre? Sì, siamo abbastanza ancorati in quel punto. Sì, c'è sia l'italiano che l'inglese, appunto. Forse appunto ci sarà un cantautore straniero, non si come dice, ospite, come ospite, che però canta, quindi certo. Questa volta ci sarà anche una lingua in più. Benissimo. Perché non è l'inglese. Sì, gli strumenti sono questi fondamentalmente. Abbiamo cambiato modo di registrare, proprio nel senso che abbiamo registrato quasi tutto insieme. Però forse meno batteria, più percussioni. Teo un po' cambiato, insomma. Sì, ci siamo un po' spostati appunto su... Poi ci sono tante influenze. Su questo disco si sente un poco, sul prossimo, nuovo, diciamo. C'è molta Africa, per certi versi. C'è, insomma, l'etnico che entra, tipo sulla lingua, ad esempio, è un pezzo molto africano. Infatti, sì, infatti Lorenzo dal vivo usa l'Africanizer, sì, che è un famosissimo, spiegalo tu. È un famosissimo strumento africano, sì. In realtà consiste semplicemente in un pezzettino di carta fatto passare attraverso le corde, che dà quel tipico suono molto in bassa qualità che hanno gli strumenti africani. Stiamo preparando un Africanizer. Adesso, perfetto, adesso la prepariamo. Adesso facciamo un Africanizer. Quanto deve essere spesso? Pensavo tipo pettine, sì, con la carta che fa quella. Si ricorda le biciclette. Esatto, sentiamola. Per dirlo io. Sentiamolo. Fagli il giro della lingua, giro così della capisce. Lingua. Tipo scordato. Sì, un suono. È stoppato. Senti. Qua però. No, questa qua così. Però suona. Forse la carta è troppo moderna. Abbiamo fatto un Africanizer improvvisato. Un po', il sitar, assomiglia un po' al sitar leggermente. Sì, il sitar dei poveri. Il sitar dei poveri. Poverissimi. Fondamentalmente serve per rendere, per far suonare malissimo uno strumento. Esattamente. Quindi si capisce anche un attimino una sonorità anche indiana in questo caso. Più africana, perché più adesso, africana. Vabbè, sentita così, in effetti può ricordare più il sitar, però allora, se la senti è più africana. Visto che parliamo di africana, legato in qualche maniera all'Africa, c'è Ayo. Ah sì, tra l'altro le ho aperto un concerto qualche ecco anno fa. Qua, benissimo, perché tu hai aperto non pochi concerti per altri artisti importanti, tra i quali appunto questa Ayo, che bellissima persona, tra l'altro. Ricordiamo che è una cantautrice tedesca, però di origini nigeriane e miste a rumene, mi sembra di ricordare. Mi sembra di ricordare, o rumeno o moldave, comunque ecco. Sì, Europa dell'Est. Perché sì, mi sì, confondo sì. con quell'altra, aspetta, come si chiama? Quale? Quella francese che abbiamo tutti i dischi. Rokia? No, francese che canta in indiano. Sashila Raman. Ah. Ecco qua, comunque no, questa stiamo parlando proprio di Joy Olamuto, quel cognome stranissimo che si porta dalla Nigeria e comunque adesso sta facendo una scalata di successo, perlomeno in Germania è molto conosciuta, non solo, anche in Francia. Sembra si parli molto bene di questa Ayo, sì, sì. Una bravissima cantautrice, per chi ha avuto modo di vedere qualche suo video, magari senza andare ai concerti, vedere qualche video su internet, è assolutamente raccomandabile. Sì. A proposito di internet, diciamo ai nostri ascoltatori dove si possono recuperare le informazioni di Ila and Happy Trees. Dunque, ci sono tipo 40 siti, ne dico due, perché sì, sennò due. Poi... Per brevità. Esatto. Uno è quello dove ci sono maggiori informazioni, è ilamusic.it, dove si trovano proprio, cioè, la biografia, la rassegna stampa, le foto... E tutto il disco, la discografia si può ascoltare. E poi nel frattempo è nato anche Ila and Happy Trees, ilaandhappytrees.com dove ci sono le loro pagine dei musicisti, e, insomma, giusto per avere. Poi su ilamusic.it ci sono gli altri link a Facebook, YouTube, MySpace. La produzione del disco è totalmente vostra? Sì, esatto, è della Tube Jam Records, che è del qui presente Teo. Del me presente. Benissimo. E quindi ricordiamo anche come entrare in possesso del disco. Dunque, il disco si può trovare ovviamente ai nostri concerti, si può trovare su iTunes, Amazon, sì, tutti i distributori digitali. Sì. Si può trovare anche fisico su Amazon e un paio di altri siti. In realtà è distribuito, facciamo finta che sia distribuito, per non aprire polemiche inutili in questa sede, da Egea. Okay. E quindi nei normali circuiti di negozi, anche se non è lì presente, si può ordinare. Si può ordinare, benissimo. E poi appunto sui siti che non mi ricordo però come si chiamano. E va bene, non importa. IBS. IBS. Ah, sì, sì, ok, quella che dove si vendono anche i libri. Esatto. Benissimo, allora abbiamo ricordato un po' di indirizzi validissimi. Se vi siete persi qualcosa, naturalmente c'è sempre la registrazione disponibile e poi ancora internet che aiuta sempre. E comunque, allora noi prendiamo un po' di fiato ascoltando un altro pezzo, esattamente la numero 12. Pensate, questo disco ha ben 14 tracce, non vi dico altro. Allora, la numero 12 si intitola Breathe Again. E allora ce l'ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Can I ask you? Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Breathe Again con Ila and the Happy Trees in questa serata del 14 febbraio 2012 su Blu Radio Veneto. Little World, la loro ultima produzione. Allora, un pezzo con un sottofondo assolutamente elettronico a scandire il tempo determinato e senza sosta. Esatto. Questo in questo caso è tutto merito, merito di, Teo di te, questo effetto. Non mi lasciano suonare la batteria vera, io che devo fare? Devi arrangiarti. O ti scrivi a un sindacato che esatto. Abbia... esatto. Polso, tra l'altro sì. La seconda voce è maschile, appunto, è di Paolo Legramandi, il bassista. Il bassista, ah, okay. Che non c'è, ma che c'è. Non c'è, ma c'è. È come se fosse stasera, sempre con noi. Esatto, sì, certo. È sempre nello stream. Avete portato una foto da tenere lì? Io ce l'ho nel il portafoglio, santino, ma l'ho lasciato in macchina. Ah, peccato. Sì, e poi sì, so sì. Che di solito quando uno fa vedere la foto dei propri cari poi muore. Esatto, come in tutti i film. Come in tutti i film, quindi preferisco tenerla un po' lontana. Non è il caso. Fai bene. E lo salutiamo ancora una volta, la prossima volta ce lo portate, esatto. Mi raccomando. Allora, Ila, dobbiamo parlare anche di un appuntamento importante che ti vede protagonista, perché nel 2009 hai dato luogo a un'iniziativa davvero importante che si chiama La Musica Regala il Cuore, Settimana della Musica. Esatto. Di quale progetto stiamo parlando, Ila? Dunque, in pratica, durante questa settimana i musicisti vanno a suonare gratuitamente negli ospedali, nei ricoveri, nei centri disabili, a seconda un po' di quello che si riesce a organizzare, in tutta Italia. È nata, vabbè, chiaramente prima in Lombardia, proprio per questioni pratiche, e poi si è estesa. Adesso siamo alla terza edizione, abbiamo anche ricevuto il patrocinio della regione, del comune, dell'assessorato alla cultura, eccetera. E quest'anno abbiamo anche fatto un calendario dove hanno partecipato anche Le Storie Tese, Cristina Donà, Andy dei Blu Vertigo e altri cantautori meno noti, proprio per dare un po' più di risalto a questa iniziativa, che fondamentalmente è tesa a far star meglio le persone malate, soprattutto i lungodegenti, perché ad esempio a noi capiterà anche quest'anno di andare a suonare appunto nei ricoveri, dove cioè quelli che stanno lì e aspettano, diciamocelo proprio, certo. ed è stata un'esperienza pazzesca, perché io l'ho organizzata non so come dire, pensando al fatto appunto che la musica sia curativa e di quanto possa far bene, però non avevo mai sperimentato sulla mia pelle cosa volesse dire andare a suonare per delle persone malate o in difficoltà. E la prima volta appunto che abbiamo fatto questa cosa è stata molto forte, cioè io pensavo adesso andremo a suonare, siamo andati a suonare a casa di un ragazzo in coma vigile, poi cosa abbiamo fatto? Un ricovero delle scuole, non mi ricordo il primo anno, cos'altro abbiamo fatto? All'asilo, esatto. E ho pensato dopo l'ultimo, che era il ricovero, cioè, morirò, nel senso che mi immaginavo un non so come spiegare, un rilascio emotivo molto, molto forte. Ed è stato così, però al contrario, nel senso che quando vai a suonare in questi tipo di realtà ti ritorna tantissimo l'energia che tu dai, e soprattutto suonare per chi sta proprio male, gli vedi cambiare lo sguardo, gli vedi accendersi qualcosa dentro, ed è una cosa che non si può spiegare a parole, non è per modo di dire. Certo. Chiunque l'abbia fatto, perché hanno partecipato comunque già parecchi cantautori, musicisti, ha vissuto questa cosa. Infatti la cosa più bella per me è quando dopo l'esperienza mi telefonano esultando: basta, io non suono più nei locali, vado a suonare solo per i malati. Perché sembra assurdo, ma è anche una cosa che arricchisce i musicisti, certo, stessi, oltre che le persone. La prossima edizione della Musica Regala il Cuore, la Settimana della Musica, si svolgerà dal 16 al 22 aprile 2012, sarà un evento nazionale. Esattamente, anzi direi anche di citare il sito, che è settimanadellamusica.com, per chi volesse partecipare in qualità di musicista, nel senso che noi siamo aperti, anzi più gente partecipa meglio è, in qualunque zona, nel senso che io quando so che un musicista vuole partecipare cerco un, visto che di posti dove andare ce ne sono tantissimi, cerco un posto dove mandarlo e poi insomma ci si mette d'accordo ed è proprio veramente una bella esperienza. Poi abbiamo aggiunto quest'anno, inizierà in contemporanea con la settimana della musica, un progetto pilota che si chiama La gente regala il cuore, ed è per tutti quelli che non suonano ma vorrebbero aiutare i lungodegenti. Ed in pratica funziona così: ci saranno sul sito appunto indicati diversi centri, ospedali, insomma quello che sarà, con degli elenchi di oggetti che possono essere utili per la vita dei lungodegenti, quindi CD musicali, stereo, strumenti, cioè vestiti, ci sarà di tutto fondamentalmente, e quindi chi vuole può partecipare anche così, e non sarà solo durante quella settimana, ma partirà in quella settimana e andrà avanti, si spera, per sempre, perché essendo un progetto pilota dobbiamo vedere un po' se funziona, sì. Però fondamentalmente è anche molto facile, perché se uno, chiaro che se uno è lontano dal centro dove si fa la raccolta è diverso, però se ad esempio uno dei centri che abbiamo già pubblicato richiedeva, non so, delle maracas, per dire, sì, è una cosa che se uno ce l'ha usata gliela può portare usata, se no costa poco, dei certo. CD di musica classica, cioè sono cose anche abbastanza facili, sì. Poi ci sono anche cose più grandi, però insomma se uno ha voglia di aiutare insomma questi centri, fondamentalmente i pazienti, è una cosa che può fare. Certo, visitando anche il sito settimanadellamusica.com è possibile anche accedere a video e a fotografie e resoconti anche delle varie, sì, manifestazioni che sono delle state precedenti. Fatte negli anni. Sì, non c'è tutto, nel senso che ognuno... Mi è caduto il tappo della bottiglia, se no, non si fosse sentito. Formiamo acqua, ricordiamo agli ascoltatori, esatto, che Blu Radio Veneto è legata, esatto, all'acqua, non sono serviti super alcolici. Esatto. No, lo ricordiamo, che magari qualcuno non dica che Ila sta dicendo delle cose sotto, esatto, l'effetto dell'alcol. No, in realtà sta parlando in una maniera davvero, davvero seria, soprattutto in questo contesto, frangente, sì, dove stiamo appunto parlando di questo progetto. Lo ricordiamo ancora una volta, si chiama La musica regala il cuore, settimana della musica, e se qualcuno è interessato naturalmente può entrare in contatto con Ila, sì, ci sono tutte le mail, c'è tutto quanto appunto, sia per partecipare come musicista che insomma per dare qualche oggetto eccetera, certo. Comunque sì, ci sono, nel sito si trovano alcuni resoconti, alcune foto, alcuni video, perché chiaramente ognuno poi con le sue possibilità e con la sua sensibilità chi è andato a suonare ha fatto anche dei video, si è fatto fare dei video del momento dell'intrattenimento diciamo, e delle foto. E poi appunto qualcuno ha raccontato quello che ha provato, qualcuno no, certo, perché certo, poi ognuno insomma, sì, ha la sua sensibilità, il suo modo di esprimersi, per cui, certo, però si trovano un po' di cose. Poi chiaramente certe cose sono state censurate, nel senso che non si vedono magari le facce dei pazienti, la riservatezza è in prima cosa, l'importante, esatto, è vedere voi, le vostre emozioni, sì, è per condividere, con per far vedere persone, che succede, certo, qualcosa, perché certo, sennò uno lo dice e finisce lì, quindi è una, diciamo, una piccola la maniera, una goccia d'acqua per cercare di cambiare il mondo, esatto, il loro mondo, ma anche il vostro mondo, visto che vi arriva un'emozione grande. Esatto. Questo per dire che mi piacerebbe ascoltare Change the World. Sì, faccio una premessa, sì, perché allora non fa parte di questo disco, farà parte appunto del prossimo, ed è una canzone semplice, volutamente semplice, che appunto... Vabbè, adesso l'ascolterete. Comunque, sì, il significato è che con piccoli gesti si può cambiare il mondo. Quindi ci ascoltiamo un pezzo non contenuto da disco di Ila and the Happy Trees, sempre all'interno di Blu Radio Veneto, il tempo che Ila indossi la sua chitarra e il barré inserito, e quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo che si intitola Change the World. A te, Ila. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E quindi non stiamo parlando solo del disco Little World di Elan and the Happy Trees, stiamo parlando anche di quello che è un passo futuro del gruppo. Abbiamo ascoltato in versione acustica dal vivo dai nostri studi di Blu Radio Veneto questa Change the World. In che maniera si vuole cambiare il mondo, Ila? Dipende. Perché giustamente uno può dire, vabbè, ma cambiare come? Nel senso, ma qua è la fiera dei buoni propositi, mettiamola così. Ci sono molte ricette politiche o tecniche, come le chiamano ultimamente, che portano a certe visioni di felicità, ma dopo alla fine la felicità in questi casi rimane un'utopia. Dipende che cosa uno ricerchi e che cosa uno intenda per felicità, nel senso che ovviamente come tutte le cose è soggettiva, per qualcuno può essere avere la macchina grossa, per un altro può essere, non lo so, svegliarsi bene la mattina, nel senso è molto soggettivo. Io quello che continuo a pensare, che appunto è il motivo per il quale stiamo già portando in giro questo pezzo, infatti si trova anche in versione video live sul nostro canale YouTube, è il fatto che le persone fondamentalmente possono, tutte le persone, anche le peggiori, possono essere buone, possono fare qualcosa per migliorare la vita degli altri. Il problema è chiaramente l'intenzione che uno ha, perché poi non è che, cioè, la differenza sta proprio in quello, sta nel fatto che uno viva la vita in un certo modo piuttosto che, e secondo me il modo di vivere meglio, di far star meglio gli altri, quindi di essere felici, in realtà sarebbe molto semplice, a partire dal buon senso della vita quotidiana di tutti i giorni, al fatto di fare qualcosa di gentile, ma basta anche un sorriso. Sembra un discorso un po' retorico, però in realtà funziona. Quindi questo è il significato fondamentalmente della canzone e fondamentalmente anche del prossimo disco, è tutto abbastanza centrato su questo, sulle piccole cose. Io la prima volta che sentivo questo pezzo, anche Flavio, chiaramente un pezzo molto bello, possiamo dire un po' nasciano nel senso positivo del termine, un po' la Graham Nash, figlio di Crosby, un pezzo molto molto folk, possiamo dire molto folk secondo me. Sì. Anche con il ritornello stesso e poi con l'arpeggio che Lorenzo faceva all'inizio. Sì. Me lo rifai un'altra volta l'arpeggio iniziale, Lorenzo? Devo dire una, certo, cosa, poverino, che Lorenzo è un gran bravo chitarrista, sì, solo che io in questo disco che verrà, insomma, ho fatto molte parti arpeggiate, così, tipo questa, che siccome io sono un po' una scarpa a suonare, è obbligato lui a fare le mie parti, poverino. Perfetto, un'introduzione molto forte secondo me, quella mi è piaciuta immediatamente, complimenti in ogni caso. Grazie. Benissimo, allora diamo spazio ancora all'ascolto di un pezzo da disco, in questo caso troviamo dei campi di luce, quindi The Field of Light in questo caso, ma e come qualcuno mai? Qualcuno ha capito campo di volo, perché Field of Fly. Magari sì, qualche errore di stampa portava anche a questo, non mi sono ingannato anch'io per un attimo, però in questo caso stiamo parlando di questi, sì, sarebbe più logico chiamarli campi di volo, in realtà sono proprio questi campi di luce. Cos'è, una visione che va oltre il nostro fisico? Ma questo è uno di quei pezzi un po' difficili da spiegare, non c'è un motivo particolare per il quale l'abbia scritto, è uno di quelli che è uscito così. È un po' un'immagine fondamentalmente metaforica, questa immagine di questo. Allora, come dice, io dormo in un campo di luce, detto in italiano fa anche un po' ridere, però è inteso come la pace, cioè, dei sensi, mettiamola così. Bene, allora ci ascoltiamo la pace, ci ascoltiamo in santa pace questa canzone di Eli and the Happy Trees. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Watching out to the summer rain. Now I tears are falling down like a peaceful rain. Thoughts are growing up with me. I'm sleeping in a field of flies. Look up to the sky. I'm sleeping in a field of flies. I'm sleeping in a field of flies. Look up to the sky. I'm sleeping in a field of flies. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una buona serata da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzovani insieme a me, insieme a noi, Ila and the Happy Trees, con il loro ultimo album, si intitola Little World. Da queste da questa sonorità stiamo imparando sempre cose nuove di Ila, The Happy Trees, 14 pezzi davvero eleganti, non si sa mai a quale dare la precedenza, perché sono tutti belli uguali, si può dire così, no? Nel senso, sono molto molto intensi, cantati in italiano, cantati in inglese. In questo frangente abbiamo avuto modo di ascoltare molti pezzi, non tutti, ci auguriamo di poterne fare ancora due live, visto che il tempo stringe e la chiacchierata con Neil and the Happy Trees si sta facendo sempre più avvolgente e coinvolgente. Quindi come riuscire a finire in questa maniera non lo sappiamo. Allora, intanto Field of Light, abbiamo già commentato, quindi è la pace dei sensi più o meno raggiunta oppure in sogno, quella che sì. Ecco. È un po' veramente un po' complicato da spiegare. Quindi abbiamo cercato anche prima, non ci siamo riusciti no. Anche se musicalmente questo è un po' più mosso rispetto agli altri sì, pezzi. Sì, c'è Teo sì, che c'è fa un lavoro di sì, sì, c'è un questo po' di tutto. Forse è il primo Avvicinati. Scusate la scogliosi che sì. Questo è forse il primo accenno a un'influenza africana. Sì, esattamente, decisamente ritmica, molto ritmica, che ci siamo avvicinati a questo tipo di mondo. È stato forse l'inizio della fine, inizio della fine. Quindi si può considerare a un certo punto anche della world music all'interno di queste sonorità. Quindi vogliono essere Lorenzo dice di sì. Se lo dice Lorenzo potete crederci. Anche perfetto. Detto Fiorenzo degli Happy Trin. Ma lasciamo perdere. Ci sono mille maniere per chiamare un gruppo. Tutte brutte. Ecco, un momento di silenzio. Silenzio, imbarazzo. No, no, assolutamente. Assolutamente. No, perché mi veniva in mente che hai collaborato, Ila, con un musicista talentuoso, forse poco conosciuto, un musicista, un bluesman indiano. in questo caso stiamo parlando di Nitin. Ah, ok, no, perché bluesman è Zonka, lo dicevo, sì, sì, indiano, sì. Mi hai lasciato così, ecco, o perlomeno io l'ho inteso così, no, perché bluesman Nitin poco. Ecco. E in realtà è Roby Zonka che è di Bombay. Ah, perfetto. Anzi, salutiamo il nostro caro amico Roby Zonka. Sì. No, Nitin Sony, sì, sì, è stata una casualità, è stata un'esperienza molto bella, nel senso che sono stata scelta insieme ad altri cantautori e musicisti italiani, francesi, inglesi, per partecipare a questo progetto che si chiama appunto Aftershock Project, che questa settimana, se non erro, fa i 10 anni, tra l'altro, e dove praticamente siamo stati prima a Genova e poi a Manchester. Abbiamo passato una settimana, prima una settimana, poi 10 giorni insieme a comporre insieme, insieme a Nitin Sony, nel senso che i pezzi li scrivevamo noi divisi in gruppi, mischiati, ci scambiavamo, perché poi la cosa interessante è che tutti avevamo delle influenze musicali molto diverse, e strumenti diversi, sì, eccetera eccetera, e per poi appunto sfociare nell'ultimo giorno in cui si è fatto un grande concerto, la prima volta d'estate appunto a Camogli, in Liguria, in una piazza, ed è stata una vera festa, e la seconda volta in Inghilterra, appunto a Manchester, giusto, tra l'altro mi aveva fatto sorridere il fatto che Ganesh fosse, esatto, fosse di lì, e dove l'ultimo giorno mi ha suonato a Band of the Wall, tutti insieme, ed è stata veramente una bellissima esperienza, prima di tutto perché confrontarsi con musicisti stranieri ti fa vedere la differenza di intendere la musica che c'è tra l'estero e l'Italia, perché purtroppo spesso e volentieri la musica in Italia è vissuta un po' male, diciamo, un po' come un hobby, un po' come una cosa da lasciare lì, non so come dire, sì, trattata, è un po' trattata male, ecco. Mentre all'estero c'è più libertà, c'è più, per assurdo, c'è più professionalità ma più leggerezza, non c'è questa, ad esempio, una cosa che ho notato subito, qua in Italia c'è questa tendenza che se uno sbaglia glielo si fa notare, diventa si litiga, si fanno cose, invece lì se sbagliavamo ridevamo, era proprio una cosa cosa che tra l'altro succede anche nella nostra band, per cui è stato molto bello vedere che questa cosa funzionasse veramente in senso più allargato. E poi l'altra cosa bella è stata appunto suonare con musicisti di estrazione diversa, completamente diversa. È stato all'inizio è stato anche un po' difficile, perché c'erano alcuni cantautori tipo me che facevano folk, altri jazzisti, un altro che faceva heavy metal, cioè è stato proprio molto aperto, un rapper, aperto. È stato molto molto molto bello, un happening vero proprio. È rimasto qualcosa di magneticamente legato, ma guarda, allora, una delle cantanti con le quali ho fatto questa esperienza ha cantato in questo disco, è una cantante francese, infatti c'è un pezzo che si intitola Lentamente, che è mezzo in italiano e mezzo in francese, è venuta proprio a Bergamo a registrare, eccetera, e chiaramente con alcuni ci siamo persi, con alcuni ci si sente ancora, e idem con Nitin, che è una persona veramente Pascal Daniel, speciale. Citando Pascal Daniel, Pascal Daniel, sì, è la cantante francese, esattamente, e Nitin Sony è veramente una persona che mi ha toccato nel profondo, perché è una persona molto sensibile, molto umile, la più umile, cioè proprio tra tutti quelli che c'erano lì era il più umile, considerando che ha lavorato con artisti, tutti. E poi ha avuto un grande momento di celebrità qualche anno fa, è stato in tutte le classifiche mondiali, esatto. Sì, ma adesso è uscito anche già da un po', ormai un disco nuovo, e insomma è stato, e poi proprio nelle cose piccole ci sono stati un paio di episodi molto interessanti, cioè mi ha proprio insegnato delle cose belle, importanti. Certo. Quindi... No, per parlare di Pascal Daniel, ricordiamo che è stata anche compositrice per conto di Françoise Hardy, sì, che tra altre cose, visto che siamo in serate di Sanremo, si era esibita assieme a Edoardo Vianello qualche tempo fa. Sì, sì, sono le piccole curiosità della vita, quindi grandi artisti al seguito di Sanremo, che viene sempre prontamente contestato, anche se sappiamo che Ila è stata anche là a Sanremo. Ah, vabbè, ok. Sì, a Sanremo off. Dalla, Sanremo dalla parte, off. Sì, che quella manifestazione che è terminata da poco e penso abbia avuto un buon successo anche in quest'anno, soprattutto perché c'è stato il Baccini che cantava quest'anno? Tenco, sì, quest'anno, Baccini che cantava Tenco, e poi ancora c'era una performance particolare di Alberto Fortis, questo è quello che ci passano le notizie. Notizie. Ecco qua. E, benissimo, allora abbiamo ancora dei minuti, facciamo ben due canzoni. Ce la facciamo, dici? Ce la facciamo, sì. Allora, direi più veloce. Assolutamente live, sì, come quella volta che Elio e le storie tese esatto, Italia sì, Italia no, in un minuto un pezzo che ne durava ben tre minuti e mezzo, in un minuto sono stati bravissimi in quell'occasione al Festival di Sanremo. E noi allora ci ascoltiamo I'll Close the Door e poi torniamo per i saluti, e i nostri amici Ilan the Happy Trees ci hanno promesso anche di salutarci con un'altra bellissima canzone sempre del loro disco Little World. Allora andiamo. Used to rain, not to wake up the sun. I took 3 stars to light up my day. I closed the door to keep out the world. I lock the world out. There's no better place than home. As long as I can see the sky, behind the clouds, I close the door to keep out the world. I lock the world out. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questo pezzo chiamato I'll Close the Door in versione dal vivo con Ila and Happy Trees. Allora, spazio per quelli che sono i saluti, visto che il tempo è sempre tiranno e quando si passano bene queste emozioni musicali non si vorrebbe mai che la lancetta si spostasse. In realtà le lancette rimangono nella memoria di ciascuno di noi, adesso abbiamo tutti gli orologi digitali per cui le lancette non si riescono più a fermare. Allora, Eland Happy Trees, innanzitutto grazie per essere stati con noi qui a Blu Radio Veneto. È stato bello sentir parlare della vostra musica e sentire la vostra musica sia in versione CD che in versione live. Ricordiamo ancora una volta i nostri ascoltatori che è già disponibile sia ai concerti sia nelle varie piattaforme digitali, ma anche di acquisti online, il vostro CD che si intitola Little World. Allora, grazie, buon rientro in quel di Bergamo. Grazie. Vi aspettiamo per quella che sarà la continuazione, voglio dire, sì, del vostro percorso musicale. Abbiamo già avuto un'anteprima ascoltando Change the World, e quindi ci auguriamo intanto che si possa cambiare il mondo in positivo e poi che si possa ascoltare il nuovo prossimo lavoro di Ila and the Happy Trees. Allora, grazie, noi salutiamo, vi lasciamo i microfoni aperti per farci ascoltare un nuovo pezzo che ricordiamo si intitola Another Day, e quindi ancora un invito, Another Day vi vogliamo qui. Ok, no, benissimo. Ci stiamo. Allora, grazie da parte, a voi per l'ospitalità. Grazie mille anche a Teo, grazie mille anche a, grazie a Lorenzo. Voi. Grazie e a voi. Buon rientro. Salutateci anche il vostro bassista, Paolo. Che ecco qua, Mauro. Che ci manca tanto. Sì, bene. Salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che certo, stasera che ha organizzato questo concerto. Grazie, questo Alberto. Bellissimo. Ciao, concerto. Alberto. Senza Alberto non avremmo potuto essere qui a presentare, esatto, Ila and the Happy Trees. Allora, da parte di Flavio Bilancio e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte a tutti. Vi lasciamo ancora con un ultimo pezzo di Ila and the Happy Trees, si intitola Another Day, questo rigorosamente dal vivo. Grazie Ila, grazie a Happy Trees. Grazie a voi. Blu Radio Sera.